scegli o ti viene suggerito di scegliere il film che vuoi vedere, come poi tendenzialmente tutti facciamo quando usiamo queste piattaforme, e quindi siamo a nostra volta profilati. Ma anche in alcuni casi ci si spinge oltre, nel videogioco oppure nella serie particolarmente avveniristica di Netflix, diventi anche tu stesso potenziale protagonista della serie e insomma diventi dato cavia. Ti diverti, ma diciamo comunque sei produttore di dati. E ultimi passaggi di questo nostro essere codice sorgente: quando dormiamo siamo datificati, basta usare le nostre app sul telefono, sul comodino, quante ore dormiamo, come dormiamo, se ci alziamo, che cosa facciamo quando è. E poi Home Life Data, Alexa e compagnia bella, quindi tutti gli assistenti con i quali parliamo in casa, come sapete, registrano quello che diciamo sia quando li chiamiamo sia quando non li chiamiamo. Tendenzialmente sono tantissimi i contesti nei quali sono state fatte indagini, cause, domande alle grandi compagnie del digitale per dire ma esattamente dove va a finire il dato di quello che ci siamo detti a casa io e mio nonno mentre non interrogavamo Alexa. Quel dato se lo tengono e è oggetto anche questo di profilazione. Tema Ale, adesso ti faccio corrispondere. Tema interessante è, vabbè, ma la profilazione è anonima, cioè alla fine quel dato è vero che arriva, però è scorporato dal mio nome e cognome, si perde in una nuvola in cui è interessante a livello statistico o per le indagini di mercato. No, perché oggi la grande capacità tecnologica di ricomporre il dato nella dimensione online è proprio che tu vieni riprofilato come individuo incrociando tutti i dati che distribuisci nel corso del tempo attraverso i diversi usi che fai dello strumento digitale. Allora, lungi dal tratteggiare soltanto un presente e un futuro distopico in cui queste cose fanno l'effetto vaso di Pandora, cioè le guardo e mi ritraggo un attimo spaventato, in realtà la cosa più interessante è capire appunto che tipo di maniglia abbiamo per aprire queste porte. E credo che Alessandro lo suggerisca molto bene nel suo libro, però primo blocco di risposte, sono stato lungo per introdurti, ma adesso poi andiamo più rapidi. Secondo me funziona anche questo, sì. È che non ti piaceva tanto, ma lo prendo io. Allora, wow. Beh, Francesco, come avete notato, è un lucidissimo cultore della realtà che ci circonda come materia di studio e di scienza. Magari per cercare di farvi orientare meglio, per chi non sapesse che cos'è Tecnoevo, facciamo una piccola introduzione al testo. Tecnoevo è un saggio filosofico illustrato, divulgativo ovviamente, che parodizza ovviamente il periodo storico del Medioevo, visto assolutamente non come un'era oscura, ormai per fortuna questa vulgata si sta diradando, ma come tale, cioè come un'età di mezzo, che dal crollo dei vari, insomma, imperi romani ci porta al Rinascimento. Però questo Rinascimento non è caduto dal cielo. Perché è nato? Chi l'ha fatto accadere? Ebbene, proprio le persone che abitavano il Medioevo. Facciamo un esempio: Petrarca, che non solo solo et pensoso misurava i deserti campi, ma anche compulsava le grandi biblioteche un po' deserte, nascoste negli anni dell'alto Medioevo, quello un po' sì, oscuro, mentre negli ultimi rivoli del basso Medioevo, quindi mentre ci avvicinavamo davvero al Rinascimento e all'umanesimo, e poi tutto quello che ne conseguiva, un figlio completo del Medioevo come Francesco Petrarca ha creato, quindi ha scelto lui e tanti altri illustri e celebri intellettuali, parliamo d'Europa, di creare, di impegnarsi per creare un'era un po' più luminosa, un po' più libera nei saperi, nella comunicazione, nelle arti, nella tecnica. Pensiamo che nel Medioevo stesso vennero inventati gli occhiali, che possono essere un simbolo di vedere meglio, di eliminare un certo filtro nebuloso. Io stesso sono completamente cieco, adesso non potrei, ovviamente ho le lenti a contatto, non potrei veramente vivere assolutamente. È un deficit fisico molto, molto importante. Adesso lo diamo per scontato. Ma quello che giudichiamo un'epoca oscura invece è stata foriera, per esempio, degli occhiali, invenzione importantissima. Poi l'aratro, la maggese, lo champagne, un sacco di cose. questa noi abbiamo arbitrariamente deciso di portarla come, come riflessione sulla realtà circostante nel, nella contemporaneità. Quindi, quando inizia il terzo millennio, secondo me non nel 2000 ma nel 2001, anno veramente importante, perché nel suo, nei suoi 12 mesi ci pone davanti il crollo roboante delle Torri Gemelle. Chi ha 30 anni come me si ricorderà ovviamente l'11 settembre del 2001, c'era una bellissima giornata, stavamo guardando tutti la televisione, perché è così, e la nostra infanzia si ruppe decisamente, definitivamente, con l'edizione straordinaria del TG3, Sono crollate le Torri Gemelle. Quindi la prima tragedia in diretta TV. Da lì io faccio iniziare il Medioevo, il Tecnoevo, fino al 2001, al 2021, con la pandemia di Covid-19 ovviamente, e con un passaggio che è quello di Facebook, o comunque tutto l'impero di Zuckerberg, che cambia nome e diventa Meta. Questa è una cosa importantissima, perché nonostante YouTube sia nato prima di Facebook, possiamo dire che questo ventennio, questo Tecnoevo, sia stato un po' figlio anche di Facebook, con la sua F su sfondo blu. E il fatto che cambi nome è veramente importante. Infatti qui, insieme agli NFT, di Meta, cioè il nuovo marchio, non si parla, perché secondo me, sempre arbitrariamente, proprio appartiene alla prossima era, al prossimo ventennio, al prossimo 30 anni, e ne parleremo in altra sede. Il sottotitolo, manuale istruzioni, nel senso che vuole dare gli strumenti per, come diceva Francesco, crearsi ad hoc una maniglia per aprire quella porta, che può aprire una porta verso un corridoio più prospettico, positivo, o anche più tragico. Questo secondo me lo possiamo fare insieme. E il ventennio sospeso è perché, di nuovo, questa nostra generazione di, come dire, millennials, non solo sta vivendo storiograficamente questi cinque lustri sospesi tra il Novecento e il futuro, ma anche proprio nella propria anima un certo disagio, al di là del lavoro precario, della crisi economica e delle tante crisi che abbiamo vissuto in questi vent'anni, ma proprio esistenzialmente, anche se pensiamo al concetto di sentimenti liquidi di Bauman e tante altre cose. Secondo me l'aggettivo sospeso, sostantivo di sospensione per il nostro spirito e i nostri corpi, è calzante. E in alcune parti del libro, dopo ne parleremo con Francesco, per esempio il capitolo un po' più pop, che è quello La grande abbuffata, 20 anni di solitudine, parliamo anche di questo. Quindi questa è una prima, come dire, disamina generale per chi fosse arrivato qui all'ex Alge e avesse detto: ok, ma cosa stanno facendo queste due persone con la giacca? Stiamo parlando di questo libro che si chiama Tecnoevo. Per tornare invece al primo passaggio, al primo momento della triade dialettica che ha proposto qui Francesco, io penso che ci sia una forma mentis in questi vent'anni che inconsciamente, quasi sempre, sia nata dal testo sapientemente vergato da André Gorz, che si chiama L'immateriale, e lui è stato veramente geniale, perché devo dire che forse è il riferimento principale di Tecnoevo, L'immateriale di André Gorz, ve lo consiglio vivamente. Dice una cosa molto semplice: questa è l'età della conoscenza, ma in realtà la seconda faccia della medaglia della conoscenza è l'ignoranza, perché non è assolutamente un sinonimo di comprensione. Il cancro metaforico precipuo di questi vent'anni credo sia veramente la colluvia di informazioni che in ogni secondo, purtroppo anche adesso forse ne sono reo, di conoscenze, appunto, che non sono che non è comprensione, ma un flusso ininterrotto di dati, se vogliamo, perché questo è, di informazione, un po' sul modello di Wikipedia, che da un lato ha democratizzato la conoscenza, ma dall'altro ha creato un esercito, un impero, per citare anche Tony Negri e altre persone che hanno studiato queste cose, di come dire, automi che fagocitano in modo bulimico, ma senza una riflessione seria sui temi che ogni giorno andiamo a creare e su cui ragioniamo. L'effetto di questa infodemia, è stata coniata e utilizzata anche questa parola, infatti se poi lo prendete, la prima frase è: nell'era della società infodemica la conoscenza è potere e malattia. Qui il tema è tornare al concetto di farmacon dell'antica Grecia, una sostanza se abusata può diventare veleno, se usata cum grano salis, quanto basta, QB, può diventare medicina, olio buono che ci fa stare bene. Secondo me questa definizione si può abbinare bene, sapientemente, sia alla tecnologia, perché come vedremo può liberare, per esempio, il casellante da un lavoro assolutamente alienante che non ha senso di esistere nel 2022. Poi cosa farà e come lo farà? Reddito base di esistenza, reddito di cittadinanza, queste sono riflessioni posteriori, però sicuramente può risolvere una condizione alienante di, di un essere umano che sta dentro lo smog per una giornata intera. Dall'altro però, come diceva anche Francesco, la tecnologia può diventare una specie di grande fratello, una specie di supporto di biopolitica, quindi un manufatto che controlla le nostre esistenze, sia con la geolocalizzazione, ma anche banalmente, se ci pensiamo, con un utilizzo malato e tossico dei social network, anche per fare tanti esempi diversi. Qui, per esempio, c'è un utilizzo tossico nel senso che quando sentiamo vibrare la nostra coscia perché il nostro smartphone ci ha comunicato che qualcuno ha fatto qualcosa insieme a noi, quindi una notifica, e questo direttamente dà un impulso di dopamina al cervello, e questo fa sì che magari anche la libido diminuisca, perché la chimica del nostro cervello è già sazia, è satolla a causa di queste, notifiche, e quindi guardando i dati, il comportamento erogeno e sessuale di queste, di queste generazioni rispetto a 100 anni fa è calato drasticamente, sicuramente penso che sia una cosa abbastanza negativa. Poi in realtà, al netto di una riflessione antropologica anche più neutrale, magari non lo è, però questo per fare un esempio di un utilizzo tecnologico un po' deviato. Ci tengo a dire un'ultima cosa, per poi cominciare a fare anche un ping pong magari più celere. Questo libro cerca di porsi in mezzo tra i cosiddetti tecnoentusiasti, startuppari, eccetera, e i tecnoluddisti. Il mio entusiasmo, il mio tifo non va per nessuna delle due parti. Il luddismo, da quando ha fatto la sua presenza, comparsa sulle scene della storia occidentale, quindi distruggere le macchine, dai telai fino adesso a magari non so cosa fate voi, però è sempre un andare contro i mulini a vento, in modo quixotesco. Più utile sarebbe una riflessione collettiva su magari dei segmenti di decrescita sana, oppure appunto delle critiche costruttive al sviluppo come progresso acritico. Dall'altro, il tecnoentusiasmo alla Silicon Valley, diciamo, perché quello è il riferimento, se vogliamo, geografico, credo che sia deleterio come il suo compagno di riflessioni, e cioè il tecnoluddismo, perché purtroppo, come stiamo vedendo per esempio con Meta, le disuguaglianze, le discriminazioni vengono reiterate per esempio anche nel mondo della realtà virtuale. Quindi, perché diavolo, con tutti i problemi che ci sono davvero tangibili qua accanto a noi, dovremmo creare una realtà virtuale dove poi tanto, come nel romanzo Snow Crash del 1992, in cui venne coniato il termine metaverso, le persone che hanno meno capacità economiche si possono permettere un avatar molto più scarno, molto più scheletrico, abbozzato, avendo implicazioni di nuovo psicologiche, di nuovo sociali, quindi non avendo magari la skin di Louis Vuitton, oppure banalmente nel romanzo non essendo un essere digitale tridimensionale, ma magari solo una linea. Questi purtroppo sono concetti vecchi che si cercano magari di disegnare in modo appealing solo con parole nuove. E se ci pensiamo, proprio quello che ha fatto Zuckerberg, con tutti i problemi che ha vissuto negli ultimi mesi Facebook, un colpo di coda, un canto del cigno con il cambio di nome, non credo possa assolutamente essere bastante, sufficiente per risolvere tutte le problematiche. Ho spaziato un po', forse ho risposto a qualche tuo interrogativo, forse no, però ho provato a fare anche un'introduzione al libro generale. Usa proprio quello che secondo me funziona meglio. Penso che tu abbia fatto benissimo. È rassicurante guardare, diciamo, siccome ci si perde, come si vede, è rassicurante parlare delle date. Le date che ha menzionato Alessandro sono interessanti, diciamo. Io sono nato nel 76, lui è nato nel 90, eppure per entrambi il 2001 è una bella cesura. Prima settembre 2001 ci sono state le due torri ed è iniziata una serie di conseguenze delle quali siamo tuttora testimoni. A luglio del 2001 c'è stata Genova, per esempio. Io e qualcun altro qui in sala eravamo a Genova nel luglio del 2001 in una situazione nella quale, perché la cito, senz'altro c'era la nostra generazione che percepiva un prima e un dopo. Quindi, diciamo, la violenza subita, il senso di una, diciamo, della prosecuzione di movimenti molto grandi che erano internazionali, anzi erano globali, che cercavano dei fini nella globalizzazione e quindi un fine per l'esercizio dell'attività collettiva. In entrambi i casi è emersa all'attenzione del mondo questo rapporto tra individualismo e collettività che è tutt'altro che scontato e che nel libro di Alessandro praticamente è presente in ogni pagina, anche nelle cose che lui ha detto adesso. Noi, tutto il discorso sui dati che ho fatto prima è per dire che noi individui produciamo continuamente dati. Questi diventano big, quindi si scorporano dagli individui, ma ritornano a contare nella vita degli individui proprio perché c'è un sistema nuovo di capacità di analisi del dato che lo rende profilabile, che lo rende finalizzabile a orientare le decisioni, a suggerire delle scelte, eccetera, eccetera. L'approccio, diciamo, sul quale coraggiosamente Alessandro dice cerco di mettermi in mezzo, come intellettuale e come persona, diciamo, che agisce nella vita e che insegna, fra l'altro, è un approccio difficile, ma è proprio la ricerca di una via stretta tra l'iperindividualismo, che facilmente si riduce nell'atomizzazione di ciascuno di noi in una bolla. Si parla spessissimo della bolla dei social, no? Per cui proprio per l'effetto dell'algoritmo iniziamo a stare e a riconoscerci in gruppi di persone nella dimensione social che tendenzialmente la pensano come noi, che difficilmente mettono in discussione il nostro approccio ai problemi, e queste bolle si moltiplicano e l'incomunicabilità fra le bolle aumenta, e questo è direttamente collegato a un insieme di individui che non sono nemmeno folla, che non sono massa, ma sono esclusivamente individui, quindi potenzialmente soli, e il collettivismo, diciamo, di cui c'è una versione tecno-ottimista molto interessante. Io da alcuni anni insegno al Politecnico per la Fondazione Bassetti, diciamo, in un corso che attualmente è su longevità e innovazione. Gli studenti vengono da tutto il mondo e si percepisce molto chiaramente come nelle società che prevalentemente in questo momento sono in Asia, che crescono forte, che si sviluppano economicamente e tecnologicamente, l'impulso, la tendenza a ritenere che ogni innovazione, e quindi tendenzialmente le innovazioni tecnologiche o tecnoscientifiche, porteranno ulteriore progresso individuale e collettivo, è una percezione forte. Quindi collettivamente si ha l'impressione che ci sia un tecno-ottimismo che è figlio anche di come il mondo globale si muove, non soltanto di come ciascuno di noi si relaziona alla tecnica o al digitale. E quindi, diciamo, concludo con questo pensiero, la strada è stretta, e ciò che tu hai detto è molto interessante anche perché le faglie di tensione che ci sono nella nostra società. In una società nella quale ciascuno di noi è on life, produttore e consumatore di dati, rischiano di in alcuni casi alimentarsi e in alcuni casi riprodursi. Lui ha fatto un esempio molto chiaro che nel libro emerge distintamente. I bias, per esempio i bias di genere, nella società dell'algoritmo e dell'intelligenza artificiale, ciò che è progettato per l'uomo bianco di mezza età tendenzialmente occidentale, e lo era anche, diciamo, nel secolo scorso, prima che esistesse la rete, prima che esistesse internet, prima che esistessero i social, è anche nella dimensione digitale progettato dall'uomo bianco di media età occidentale per l'uomo. Per cui ci sono dei libri molto belli, diciamo, che si possono cercare anche avendo letto prima il libro di Alessandro. Uno l'hanno scritto Emanuela Grillier e Guido Romeo e si intitola Per soli uomini, diciamo, organizzazione della salute, organizzazione della città, informazione, come il genere anche in una società del tutto digitale diventa determinante, quindi non è affatto scontato che il progresso, diciamo, della tecnoscienza o dell'informazione colmi i gap. Quindi individualismo e collettività mi sembra un tema, diciamo, da tuo libro che ti restituirei, anche perché tu citi Han. Han fa dei bellissimi ragionamenti sulle shitstorm, quindi le masse di messaggi denigratori, minacciosi, che possono arrivare attraverso tendenzialmente i social. Anche in questo caso non si tratta di un movimento di folla o un movimento di massa, si tratta di individui atomizzati che però ti riempiono di cacca attraverso i social. Fenomeno interessantissimo, fenomeno nuovo sostanzialmente, ma appunto che ha a che fare con qualche cosa che prima non avevamo davanti. Il punto secondo me qual è, per passare anche poi alla successiva così non ci torno sopra, tu hai usato la parola atrofia. Atrofia dei fini, bulimia dei mezzi. Questo era il core. Atrofia dei fini, bulimia dei mezzi. Che cosa significa? Che siamo in una società nella quale non è che necessariamente, dicevi tu, più informazione significa più conoscenza o più sapere. Raggiunto un certo livello di informazione che ci arriva, ce ne arriva tantissima, noi non capiamo di più. Tendenzialmente ci confondiamo di più. In una dimensione in cui il tutto è big, compresi i flussi di informazione, questo è un fatto rilevante. Ancora più rilevante, quindi, bulimia dei mezzi. Noi possiamo molto di più grazie alla tecnologia. Per esempio, possiamo avere molta più informazione, ma possiamo anche arrivare molto più lontano, muoverci molto più veloci, eccetera. Atrofia dei fini. Collettivamente facciamo molta fatica ad identificare insieme le strade verso le quali ci piacerebbe andare, proprio perché la tendenza è quella a creare tante bolle, a individualizzare ulteriormente e quindi trovare dei fini collettivi diventa ancora più difficile. Diciamo che quella è la parola che noi abbiamo sempre chiamato politica, sostanzialmente. Per cui, Ale, non so se qualcosa ti risuona. Assolutamente. Allora, parto dalla fine. Han fa tante riflessioni interessanti. Forse il suo... in Germania. Sì, si sente abbastanza. Diciamo che secondo me il suo pregio principale è quello di fare grande divulgazione filosofica, di pensieri super originali non ne partorisce, idea mia, però raccoglie veramente bene tanti cursori del pensiero del Novecento e dell'Ottocento in dei testi squisiti, quindi ve lo consiglio. Parla del digitale, parla anche della scomparsa dei riti, parla della società della stanchezza, di tante cose. I social network, perché di questo stiamo parlando in questo momento, di nuovo sono... Sì, forse prendo questo che è meglio. Hanno una duplice... ehi, che voce profonda. Hanno una duplice natura, un po' Giano Bifronte dei nostri tempi. Come dicevamo prima della tecnologia. Da un lato davvero, vi parlo della mia esperienza personale, sono forieri di potenziale di comunità, cioè quello che Han critica, l'assenza di di comunità e di riti, ma in realtà io vengo da delle prove di un nostro gruppo musicale che fa parte anche di un collettivo più ampio, storico, con laboratori di scrittura creativa, di pupazzi giganti per i bambini. È venuto un maestro di musica percussiva direttamente dall'Argentina. Tutto ciò è nato attraverso i social network. Nella mia bio dietro il libro viene detto socio fondatore di Social Innovators Community, un altro gruppo di un circuito di giovani innovatori sociali under 35 da tutta Italia. Abbiamo fatto un po' di eventi, poi è arrivato il Covid, adesso il nostro gruppo ha quasi 1000 membri, un altro esempio di ritualità collettiva e di comunità nata e reiterata nello spazio-tempo attraverso i social media. Quindi di nuovo la pars d'instruence, per citare Francesco Baccone, credo sia molto più affascinante, è più sexy, anche con la fantascienza lo vediamo, però è anche molto più semplice. Un altro discorso è mettersi davvero a vedere come funzionano queste dinamiche, che magari danno dei frutti positivi, virtuosi, ma che magari per una narrazione, come dire, chiaroscura, non sono molto affascinanti. Però effettivamente, cavolo, davvero i risultati ci sono. Poi, naturalmente, come detto prima, non bisogna essere neanche entusiasti. Il ressentiment di Nietzsche, che lui vedeva alla nascita del cristianesimo, quindi torniamo a fare un salto nell'antichità, e cioè gli individui atomizzati che non riescono a uscire dal proprio stato di penosa sconfitta, che si riuniscono, ma in realtà aumentando e peggiorando le proprie condizioni di individui soli e sofferenti, in modo identico si è ripercossa qui nelle bolle che citavi prima, nell'esacerbare i conflitti interiori, oppure pensiamo anche agli incel che si riuniscono in forum aberranti in cui da un lato denigrano il genere femminile, dall'altro addirittura vanno a insegnare come aumentare la capacità della mascella. Cioè delle cose veramente terribili, ma che non sono cambiate lungo gli anni, lungo il corso del tempo. Veramente Nietzsche fa uno studio molto importante nella genealogia della morale, in cui parla di questi soli non splendenti, ma individui soli che si crogiolano nel proprio stato di misera condizione e vogliono creare delle comunità, però delle comunità tossiche. Questo è un altro esempio che la filosofia ci aiuta e che Han riprende, ovviamente, Byung-Chul Han, di nuovo per spiegare un po' come funzionano i social network. Il libro però suo più citato qua dentro è Nello sciame, visioni del digitale, che è in realtà in inglese è Digital Prospects, che secondo me è anche un vocabolario più preciso, perspicuo, perché visioni, sì, è un po' più generale. Le prospettive del genere del digitale, secondo me, è un concetto importante. Anche qui alla fine si parla di scie del digitale, di prospettive della tecnologia, perché appunto attraverso il concetto del pharmacon può essere vista come A o come B, e alla fine il codice binario quello è, e ci aiuta anche per comprendere le potenzialità o le criticità della tecnologia stessa. E in questo libro Anna dice: noi siamo diventati da cacciatori, raccoglitori, a contadini, a stupratori di informazioni, fluidificate, malleate secondo i nostri fini, che possono essere spesse volte anche egoistici. Vi consiglio molto la lettura. La dicotomia, e quindi risalendo un po' a gambero all'inizio della domanda di Francesco, tra utilizzo e condizione individualistica e collettiva di tutto ciò che riguarda l'agone tecnologico, secondo me è veramente il punto focale di questi tempi, molto dei tempi qui narrati, quindi 2001-2021, ricordiamo anche la valuta, l'entrata dell'euro come valuta europea, il 2001 è veramente un anno pazzesco, nonché l'inizio della guerra in Afghanistan, che guarda caso l'ultimo soldato americano lascia il suolo afgano nel 2021, quindi anche lì questo ventennio ritorna. Credo sia davvero il vulnus poi del prossimo ventennio, quindi ciò che ci porterà al già celebre 2050, perché anche attraverso gli SDGs, gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, si guarda al 2050, oltre perché è affascinante, perché segna la metà del secolo, come davvero forse punto di non ritorno, nel senso, se non ce la facciamo a cambiare il mondo, che non sta andando proprio benissimo come volevamo adesso, entro il 2050, forse per dare una nota di allegria per il genere umano, forse davvero sarà la fine, però probabilmente è così. Nel 2050 dobbiamo cambiare le cose. Ultime parole sul concetto individuo e comunità. Da un lato, nell'innovazione sociale che sta prendendo sempre più piede, per fortuna, in tante anime della società che magari prima erano a digiuno di questo concetto, tipo me, perché io prima del 2019 non ne conoscevo l'esistenza, e adesso appunto varie associazioni, APS, piccole imprese sociali, eccetera, ho capito davvero la valenza di questa realtà. L'innovazione sociale, oppure sì, il design dell'innovazione sociale, di cui il cantore maestro Ezio Manzini del Politecnico, professore emerito, un altro padre di questo testo, può essere veramente l'atollo che nell'arcipelago veramente vago e alienante che abbiamo fin qui tracciato va a riunire le pulsioni dell'egoismo innato dell'uomo, e però anche la spinta alla sopravvivenza. E si è capito in questi anni, secondo me, complice anche la pandemia, ovviamente, da un lato che il digitale, per esempio, deve diventare bene comune, assolutamente, come l'acqua e l'elettricità, e dall'altro è che il cambiamento vero non avviene da soli, mai. Ci sono dei bei libri nel Novecento apparsi in cui, ma anche dal titolo si dice, l'intelligenza collettiva è molto più potente, molto più anche efficiente di quella individuale. Quindi la pandemia, che segna la fine di questi quattro lustri del Tecnoevo, hanno insegnato, purtroppo, però questa è la realtà dei fatti, che unendo le nostre capacità, le nostre creatività, le nostre intelligenze, potremmo quantomeno raggiungere dei risultati che, come si dice a Milano, piuttosto che niente, mai piuttosto. E per una nota di colore. E dall'altro che i social network possono essere, da un lato, strumento di aberrazione umana con fini tragici, anche perché parlavamo prima di incel, e hanno portato a delle morti anche, gli involuntary celibate, cioè i celibi involontari, i singoli involontari che, secondo la loro narrazione fuori di testa, non riescono a trovare un riscontro amoroso e quindi vanno, sparano a zero contro il genere femminile. Dall'altro però io ho visto in prima persona degli esempi molto virtuosi dell'uso, in questo caso, dei social network. Qui dentro ci sono degli esempi, credo, molto più ordinati e molto più, pacati di quelli che magari stiamo facendo adesso, presi dal calore del parlarci insieme, e credo che appunto rispondano bene al sottotitolo manuale di istruzioni. Poi ognuno decide come accepire questi, non consigli, ma questi esempi. Direi che ci sono tanti esempi che possono dare l'idea di questo ventennio, dove tanti fantasmi lo popolano, l'online life impera, però ci sono anche degli esempi, credo, virtuosi. Che dire d'altro? Io ti ridò la parola, perché l'ultimo passaggio credo sia ancora più interessante, per arrivare a una sintesi finale di quello che può essere questo testo, anche perché poi bisogna lasciare spazio anche alle altre arti. Penso che abbiamo finito, diciamo quasi. Secondo me quello che hai detto è chiarissimo rispetto alla tua, alla tua esigenza, cioè quella di dire troviamo la strada per rispondere alla domanda, diciamo, a quale sapere andrà il potere e uscire bene da una dimensione nuova nella quale tutti siamo immersi. Cioè questo ventennio ci ha immersi in una dimensione storicamente inedita, per grossa parte dipendente dalle tecnologie dell'informazione, moltissimo dalle tecnologie biologiche, su questo non ci siamo soffermati tanto, mi ero preoccupato che non avessimo ancora citato la pandemia, che è un fatto biologico per eccellenza, ma voi sapete che all'inizio degli anni 2000 appunto è stato mappato il genoma per la prima volta, quello che ci sono voluti 3 miliardi di dollari, decine di ricercatori in tutto il mondo, molti anni per fare allora col progetto Genoma. Adesso lo si fa quotidianamente in tantissimi centri con pochi ricercatori e a poco costo. Questo rende l'idea di come siamo passati dal secolo della chimica al secolo della biologia, e anche la biologia è dato e informazione, per cui non si scappa. Effettivamente la realtà di cui parla Alessandro è una realtà di profonda trasformazione, piena di potenzialità e di possibilità di miglioramento, di cura, per esempio, nell'ambito della salute. Credo anche che il terreno sul quale tu poggi i piedi sia un terreno molto solido, cioè oggi il cantiere della trasformazione sociale in senso di progresso e non di regresso è quello costruito all'incontro tra innovazione tecnoscientifica e innovazione sociale. Se si tenta di fare soltanto innovazione sociale pensando di lasciare, cosa che nessuno fa, credo, peraltro, pensando di lasciare ai margini la dimensione tecnologica o tecnoscientifica, si rischia di essere inani, cioè incapaci di produrre effetti. Se si pensa soltanto all'innovazione tecnologica come motore di progresso, si rischia di lasciare indietro tantissimi, diciamo, non solo per via del digital divide, quindi chi si può permettere e chi non si può permettere di utilizzare correttamente gli strumenti digitali, ma anche perché semplicemente un progresso solo tecnoscientifico non è progresso. L'incontro, il cantiere tra innovazione tecnoscientifica e innovazione sociale, secondo me, come tu indichi, è quello giusto. Diciamo, è un grande cantiere di azione collettiva, non individualista, che ha molti risvolti concretissimi, anche locali, e che diciamo nel tuo libro, dal tuo libro si deduce. Devo dire, nel 1994, per ancorarci ancora alle date, Howard Rheingold, un americano della provincia degli Stati Uniti, aveva già scritto, ma è stato tradotto in italiano, questo libro intitolato Comunità Virtuali. Non c'era ancora, lo sapete, il World Wide Web, quindi non c'era nemmeno l'interfaccia attraverso la quale noi siamo abituati a usare internet quando usiamo internet. C'era però la rete, c'erano collegamenti tra modem che producevano gruppi di discussione testuali, e del resto, diciamo, chi ha alla mia età ha fatto in tempo a vederli, ad usarli. Howard Rheingold diceva: ehi, ma queste sono comunità virtuali, noi comunicando tra un paese e l'altro della provincia abbiamo creato dei gruppi di persone che affrontano dei problemi che altrimenti non saremmo riusciti ad affrontare. Ed io ero un ragazzino e stavo finendo il liceo, feci la tesi di diploma dicendo: ah, esistono queste comunità virtuali, c'è internet, guardate che internet potrebbe affrontare i temi della disabilità. Naturalmente andavo a casaccio, mi basavo quasi esclusivamente su quel libro, però il modem iniziava a entrare nelle case e si vedeva come qualcuno si ponesse il tema del fatto che non c'è solo la tua casa, il tuo modem e la tua connessione, c'è una comunità nella quale sei immerso, e anche la comunità virtuale è una comunità, magari sarà addirittura meglio di quella che tu hai vicino. Fra l'altro, a difesa di Mark Zuckerberg, diciamo, del quale abbiamo molto usato i social ma che tendiamo a denigrare nei nostri discorsi, è anche vero che lui ti dice in un bellissimo discorso, e ho concluso, che fa con lo storico israeliano Harari, del quale forse avrete letto i libri, se no ve li consiglio. Zuckerberg gli dice: guarda che io in fondo, quando ho creato il social, così come quando ho creato Facebook, sì, nei film si vede che io volevo fare l'album delle ragazze del college, in realtà, diciamo, io ero un provinciale che si sentiva mosso da passioni che non erano quelle dei ragazzi che stavano nella mia provincia, volevo trascendere quel confine territoriale nel quale ero circoscritto e mi è sembrato che la direzione nella quale stavo andando mi consentisse di farlo e di fatto creasse una comunità molto più larga, potenzialmente globale, eccetera, eccetera. Quella è un'aspirazione di comunità virtuale. Peraltro, diciamo, questa comunità virtuale è stata fatta. Oggi non possiamo, se non vogliamo, questa è l'ultima considerazione, poi ti lascio la conclusione, se... Carl Schmitt diceva non credere di essere buono solo perché non hai il potere. Sapete che Carl Schmitt ha scritto i dialoghi sul potere, bellissimi. Non credere di essere buono solo perché non hai il potere. Cioè oggi siamo in una società nella quale tendiamo a pensare che c'è un potere che tendenzialmente ce la conta rischiosa o brutta, che non è il nostro, che allora noi siamo buoni, qualcun altro ha il potere e non va bene. Tendenzialmente nel discorso pubblico iniziamo a ritenere che quel potere stia nei GAFA, Google, Amazon, Facebook, eccetera. Come cerca di dirci Alessandro, fra le righe, ma neanche troppo, non ce la caviamo facilmente dicendo adesso i GAFA sono cattivi, sono come le sette sorelle del petrolio nel Novecento, te la prendevi con le sette sorelle e ti sentivi l'anima in pace. No, più difficile, dobbiamo riuscire a trovare, appunto anche grazie al manuale di istruzioni, la maniglia per muoverci in questa dimensione, uscire dall'individualismo, uscire dal risentimento scettico delle shitstorm e fare insieme diciamo il rinascimento, come tu dici giustamente, dopo il Medioevo, che non era così buio come sembrava, però insomma, in fin dei conti era anche un po' buio. Quindi, Alessandro, le ultime parole per concludere, grazie ancora per l'invito. Grazie a te, anche perché hai illuminato delle zone d'ombra che io stesso avevo, insomma, mi sono rimaste, quindi nuovi spunti per comprendere meglio anche quanto si è scritti, perché alla fine qualcuno diceva si scrive sempre il primo libro in modo diverso, poi per tutta la vita, quindi probabilmente lo scriverò ancora, ma simile a questo con altri temi. Qua dentro, per fare proprio una chiosa finale, troverete davvero tantissime parole, tantissime immagini, è un concerto polifonico di storie, concetti, di interpretazione del reale, però ce n'è davvero per tutti i gusti. Potete iniziare dal primo capitolo fino all'ultimo, oppure pescarne uno a caso, oppure dai nomi che cercano anche di alleggerire un po' il discorso, andare alla pagina corrispondente e poi da lì, come dico anche nella premessa, crearvi un percorso vostro, sempre proprio appunto nell'ottica di prosumer, cioè insieme create la vostra curiosità e da qui iniziate anche il vostro percorso. Davvero non vuole essere qualcosa che rende l'utente passivo, ma anzi anche magari avendone lette solo 50-60 pagine, il desiderio nascosto è che questo venga riposato su, in questo caso, un barile, ma più comunemente un comodino accanto al letto, e poi andare a agire nella realtà, perché appunto il rinascimento, il cielo sereno dopo la tempesta si crea appunto insieme, facendo, uscendo nelle strade, ma consci di quello che succede nelle scie digitali, nel digital prospect, di nuovo, di cui parla Anne. Quindi questo è il fine principale, cioè cercare di creare comunità anche attraverso dei libri. In fondo stasera lo stiamo facendo, Pangea è una comunità artistica e culturale di persone che hanno storie diverse, background diversi, ma che vogliono ibridare i saperi, vogliono radunare persone che hanno appunto storie e background diversi per costruire qualcosa di bello, e se poi è anche utile ancora meglio, insieme. Quindi io spero che questo libro vi piaccia. Dentro si parla anche di videogiochi, di automazione, di politica, di lavoro, di tantissime cose di cui non abbiamo parlato questa sera per non annoiarvi troppo, però una breve letta lettura dell'indice vi farà cogliere appunto la polifonia di argomenti che abbiamo trattato, con il supporto ovviamente di Marco Filopat, l'editore di Agenzia X e fondatore di Agenzia X, e altri giovani volenterosi che hanno ovviamente contribuito, perché il libro sembra un po' plotiniano, un uno singolo, ma in realtà se ce n'è uno è un lavoro collettivo. Assolutamente, scrivere un libro non si può scrivere da solo. Purtroppo non sono qui presenti, quindi non posso ringraziarli, ma è doveroso assolutamente il ringraziamento. Adesso ne parliamo informalmente anche davanti a un bicchiere, oppure il cavo me lo permette, vi cedo il megafono, il microfono per fare delle domande. E prezzo speciale per la serata del libro è 10 euro, e io faccio anche da cassiere perché sono multitasking, come piace fare nella vita. E niente, appunto, se ci sono domande siamo ben felici. Grazie ancora Francesco per soprattutto la cura che hai messo nel tratteggiare questa presentazione del libro. E altrimenti non sul palcoscenico tappetoso, ma sul balcone ne parliamo ancora. Intanto vi ringrazio per la presenza, e tra poco, se volete rimanere con voi, arriveranno anche altre persone. Pangea continua, in questo caso non più con le parole ma con tanta musica. E grazie ovviamente alle ragazze e ai ragazzi di Exalge che fanno un sacco di cose molto belle. Vi consiglio il palinsesto, grazie stasera per averci ospitato. Quindi non vedo mani alzate. Ah no, sì, ce n'è una mano alzata in fondo. Credo che ti sentiremo perché la tua voce è abbastanza stentorea. Allora, forse... No, ho capito bene. Non so se l'idea appunto della dicotomia bene-male l'abbia appiccicata anche al discorso della chimica digitale, cioè dei flussi di dopamina dovuti alle notifiche degli smartphone. Però faccio l'avvocato del mio stesso diavolo e dico, va bene, magari l'ho detto, e troviamo... un po' l'esercizio dialettico che faccio nel libro, troviamo una spiegazione anche di questo. Positivo nella connessione, cioè il concetto di on life, ma tutti i concetti sono molto, come dicevo prima, facili da vendere in modo critico. Si è molto fighi criticando tutto ciò, il digitale, la iperconnessione, l'on life. Quello che dico io, perché mi piace prendere le parti dei cattivoni ogni tanto, in dubio pro reo, e dico forse anche questo ha un lato simpatico, positivo, utile, socialmente innovativo. Ebbene, la scarica di dopamina che ti viene da una notifica può essere assolutamente non meritoria, come un like su Instagram, ma può anche essere il fatto che, come spesso succede appunto, ci sia magari un cataclisma naturale e quello ti possa segnalare che in quel luogo c'è stato un problema, che delle persone a cui vuoi bene sono in quel luogo, magari tu puoi fare qualcosa proprio perché sei nei paraggi di quel luogo, hai la strumentazione tecnica per risolvere quella problematicità. Sono tutte cose a cui non pensiamo, o che pensiamo dopo, cioè andiamo prima a criticare tutto quell'apparato e poi diciamo Effettivamente, di solito dopo 30 minuti, 40 minuti di critiche, però ha anche quell'aspetto positivo. Secondo me è una cosa, almeno onesta intellettualmente, porli sullo stesso piano. Poi voglio sentire anche che cosa da dire a proposito Francesco. Però sì, io ho notato veramente nell'agone giornalistico universitario dell'intelligenza italiana, europea, occidentale. Veramente un piacere quasi fisico a un catastrofismo da rivista patinata. Secondo me è più interessante, ma proprio per il genere umano, andare un po' più in profondità. Poi in quel caso magari non l'ho detto per la notifica e la dopamina, però anche questo è un esercizio filosofico che stiamo facendo. Anche nel libro di Alessandro ti suggerisco, escono dei passaggi nei quali vengono richiamati, diciamo, chi ci ha pensato seriamente, ma banalmente gli artefatti che l'uomo e la donna nei secoli hanno creato, tecnici, hanno sempre modificato l'uomo e la donna. La penna, gli occhiali che citava lui prima, oggi. Diciamo, quei surrogati che adesso hanno la forma dello smartphone e domani ne avranno un'altra della realtà virtuale aumentata, che noi stessi abbiamo creato e che mandandoci scariche di dopamina con la notifica ci fanno piacere, se no non lo faremmo e probabilmente contribuiranno a modificarci ulteriormente. Questo sono d'accordo, diciamo, con l'interrogativo che tu ponevi. Può crearci delle preoccupazioni se riteniamo che l'effetto condizionante sia troppo forte, cioè se qualcuno attraverso qualcuno, diciamo, se nella traiettoria dei nostri comportamenti questo essere addict dalla notifica ci condiziona troppo e negativamente lo scopriremo. Oggi forse possiamo pensare che ci distragga da altro, lui diceva dal sesso prima, ma può essere che ci distragga anche da molto altro. In realtà, però, appunto, secondo me semplicemente rientra in un'evoluzione nella quale il genere umano crea artefatti che poi lo modificano. È sempre stato così e si tratta soltanto di farci i conti. Quindi sono d'accordo con la risposta di Alessandro alla fine. Una cosa che non è uscita, secondo me è divertente come esempio, adesso al di là delle fazioni politiche, però se c'è un'innovazione che unisce tutti è la stampa, cioè 1452, caratteri mobili, Gutenberg, e anche la stampa, come tutte le innovazioni tecnologiche, all'inizio fu criticata. Ma signora mia, un po' la contessa, ma dove andremo a finire? Adesso, cioè, i contadini possono leggere la Bibbia stampata in vari esemplari. Era così davvero. E adesso, al di là di differenze ideologiche, chiaramente siamo qui a parlarne anche grazie a quel simpaticone tedesco. Quindi è la storia dell'uomo, cioè un po' un innato criticismo, un innato catastrofismo c'è, perché il nuovo fa sempre paura. Poi arriva la riflessione un po' più seria e pacata. Ma non dimentichiamoci, infatti, che qui siamo nell'occhio del ciclone, cioè la tempesta è appena iniziata. World Wide Web, anni 90, i social network come li conosciamo, diciamo metà anni zero del terzo millennio, sono cose appena nate, quindi è ovvio che ci diano paura, è ovvio che non riusciamo a comprenderne i tratti fisiologici più intimi, ma perché ci siamo dentro, proprio fino alla punta dei capelli, work in progress. Soltanto tra, secondo me, 40-50 anni saremo in grado di usarli, utilizzarli in maniera pacifica affinché non ci possano fare del male. Adesso è normale, e questo infatti è un manuale di istruzioni, perché stiamo montando insieme il mobile come all'IKEA, ma sicuramente il mobile non esiste ancora. Nell'ambito delle istituzioni esistenti, cioè lui che era immerso come tutti quelli che vivevano fra le due guerre in società tecnologiche, era un'altra tecnologia, ma era una tecnologia dirompente, vivevano problemi resistenti ai tentativi di soluzione nell'ambito delle istituzioni esistenti. innovano le scienze e le tecnoscienze, e le istituzioni esistenti, quindi i modi di comportamento dati accettati, ma anche le regole, sono quelli per gestire il prima. Quindi di continuo noi le forziamo, e oggi secondo me siamo in quella dimensione. Cioè, quando si dice dobbiamo tassare o non tassare le multinazionali del web, quanto è giusto che i nostri dati circolino liberamente, quanto dovremmo proibirlo, devono essere pubblici, devono essere privati, le istituzioni esistenti stanno facendo un potente esercizio di autoriforma per fare i conti con la società tecnologica di oggi. La scarica di dopamina della notifica fa parte di questo. E grazie per la domanda, ovviamente. Adesso abbiamo abbandonato il microfono, tanto le corde vocali ci aiutano. Se ci sono altre domande, volentieri, altrimenti ci aggiorniamo e sarò felice di scambiare per monete e carte questo bene, nel senso di prodotto, di intelletto, perché ovviamente purtroppo dobbiamo raccogliere anche un po' di cassa. E niente, quindi direi di terminare questo primo momento della serata Pangea. Abbiamo una domanda, fantastico. Senza microfono? Sì, perché okay. Non sono sicura che abbia capito bene, ma secondo lei Tecnoevo è già finito e stiamo per entrare nel, direi, una specie di Metaevo, o ancora troppo presto? Beh, intanto grazie per il lei, ti prego non usarlo mai più. allora... una domanda semplice ma molto importante. In questo libro, che sorpresa, cioè spoiler, dovrebbe essere il primo di una trilogia, il Tecnoevo va dal 2001 al 2021, quindi porta chiusa. Altra porta, altra maniglia, come dice Francesco, si aprirà su quello che è nato due mesi fa, cioè dal 2022 in poi, che vorrei trattare nel secondo momento, nel secondo libro, e si potrebbe chiamare Umanesimo 4.0, umanesimo proprio per quello che abbiamo detto prima: dopo ogni medioevo c'è questa rinascita di arti e cultura e intelletto, 4.0 perché credo che il tema principale dei prossimi anni sarà proprio il lavoro. Il lavoro e il rapporto con l'automazione, ma soprattutto che cosa faranno quelli che non avranno il privilegio di lavorare, perché il lavoro diventerà sempre più un privilegio, e quindi tutto il discorso di reddito di cittadinanza, il reddito di base incondizionato, insomma, l'universal basic income. Marx, che stranamente non avevo ancora citato, nella sua gioventù, poi invecchiando ovviamente si è autocriticato, perché o muori da eroe o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo. Però nella gioventù disse: il lavoro va distrutto, il lavoro va superato. Secondo me siamo arrivati a un grado di civiltà antropologica molto elevato e possiamo finalmente, finito il Tecnoevo, fare una riflessione sul lavoro. Cioè il lavoro comunque ci distoglie da ciò che ci fa stare bene, dalle nostre passioni, dai nostri sentimenti, quindi una riflessione azzardata assolutamente, siamo proprio nell'iperuranio, sulle alte nuvole del pensiero, sulla fine della civiltà del lavoro e quindi proprio l'ingresso in una nuova era antropologica. E fa una paura incredibile questo, perché noi ci pensiamo come lavoro, siamo esseri che lavorano. Aristotele diceva: abbiamo inventato il lavoro per meritarci il tempo libero, quindi come se ci sentissimo in colpa, e togliere tutto questo ci farà cadere in un'autenticità di cui parlava Heidegger, cioè noi con noi stessi. E adesso che siamo nel Tecnoevo, lo smartphone, le notifiche, la dopamina, cavolo, stare con noi stessi e basta, senza neanche il supporto del lavoro, ci farà cadere in un oblio di timore pazzesco. Però, come ogni novità, è anche avvincente, compelling, cioè ci farà veramente ragionare con noi stessi. Quindi tantissime cose su cui ragionare e scrivere, però non sarà Tecnoevo, sarà un'altra cosa. E di nuovo chiedo a Francesco cosa ne pensa, perché questo è sono andato un po' troppo in alto con quest'ultima risposta, però grazie della domanda, perché almeno abbiamo fatto lo spoiler anche del prossimo capitolo. Però intanto c'è questo. Grazie a te. Grazie a lei. E va bene, direi che potremmo potremmo dare vita al, come dire, all'atteggiamento sociale chiamato applauso che pone fine al cerchio. Time of year.